E adesso facciamo un bel segno di croce. Non sai mai quale scegliere. Tutta un'eternità, milioni di anni a fare la figura dello scemo. È un inferno in paradiso. Ma c'è niente da ridere. Sai che mani, però che musica. Con quelle mani, due, destre. Se solo c'è un pianoforte. È dinamite quella che hai sotto il culo. Alzati da lì e vattene. È finita. Questa volta. È finita davvero. Con l'attrice Cinzia Damassa per parlare dello spettacolo 900, la leggenda del pianista sull'oceano di Alessandro Baricco, per la regia di Roberto Cagliafa, a Roma, in funzione giovedì 10 ottobre 2019. Cinzia, ben trovata. Buongiorno a tutti e grazie di avermi invitata alla vostra trasmissione, di avermi dato la possibilità di parlare un po' di questo spettacolo, che tra l'altro per me è difficilissimo da portare con le parole, quindi vorrei dirvi venite a vederlo, però sono qui. Proviamo a presentarlo? Sì, 900 nasce nel 2012 per la regia di Roberto Cagliafa a Milano. Nasce da un mio primo grande amore. Mi hanno chiamato in una scuola per il giorno della lettura a portare un testo. Non lo conoscevo, ho visto il film La leggenda del pianista sull'oceano, è stato tratto dal monologo. Non lo conoscevo, quindi l'ho letto e solo leggendolo ho avuto questo grande desiderio di entrarci ancora più profondamente, perché sentivo una grande affinità. Quindi è diventato un monologo che ha debuttato a Milano e da lì poi la sua vita non si è più fermata, perché senza promuoverlo, spingerlo, è stato richiesto, era presentato in tanti posti, tipicamente in situazioni da camera, perché essendo un monologo trova la sua strada in una comunicazione molto diretta. Il palcoscenico è più mediato, però o il microfono, è una mediazione troppo forte, quindi la sua vita è proprio a contatto con le persone, perché è un racconto. Questo è il motivo per cui si è scelta anche una scena molto minimale, perché qualsiasi artificio o marchingegno teatrale avrebbe sicuramente distratto dalla parola, perché è un testo, è un monologo, che è un testo letterario, ma che parla al cuore, all'anima, è tutto concentrato sulla parola e quindi ha bisogno di poco, tranne che una comunicazione vera. Ecco, cosa avevi apprezzato della scrittura di Baricco? Beh, è un testo fantastico, è poi un gran privilegio per un attore poterlo recitare, perché ha dei momenti comici e dei momenti profondissimi. Per me è un po' difficile parlarne perché sono così vicina a questa figura, infatti l'ho voluto fortemente, nonostante essendo donna ho dovuto anche trasformarmi in un uomo, comunque di natura molto molto androgina, quindi non è stato, anzi forse una rappresentazione femminile lo arricchisce, è un personaggio che sento molto molto vicino alla mia natura, è un uomo che non riesce a scendere dalla nave, quindi a vivere la sua vita, a fare le scelte che potrebbero indirizzare la sua vita, che si vede proprio nella scelta stessa un elemento di cinismo, come l'utilizzo un po' del mondo per i propri fini. C'è una spiegazione anche molto filosofica del testo, è un testo che arriva e arriva proprio nella profondità, perché tutti, sono certa, hanno avuto quel momento che non sono riusciti a vivere la propria vita, a prendere in mano una situazione, a rinunciare e quindi sublimare un desiderio o un momento della propria vita. Su quali aspetti avete voluto centrare l'attenzione per la trasposizione? Ma abbiamo pensato molto, io e Roberto Cagliafa, se rispettare il testo e quindi creare una figura maschile, quindi diventare un uomo che racconta. Invece poi abbiamo volutamente creato Jean al posto di Tim Tooney, che è l'amico di 900, perché così in questo modo abbiamo potuto lavorare anche sull'amicizia di un uomo e di una donna e sull'elemento androgeno. Io stessa sono una donna molto maschile, 900, è un uomo dalla sensibilità femminile, un po' sessuata. Il nome stesso del piroscafo su cui si svolge tutta la narrazione, il Virginia, non credo che sia casuale. Quindi si è lavorato molto sulla sessualità di quest'anima, sulla convergenza delle due parti. In ogni caso è la prima volta che viene recitato da una donna, quindi forse può essere un po' destare anche qualche curiosità. Non mi è stato difficile comunque entrare nei suoi panni, perché lo sento molto molto vicino, è una natura splendida quella di 900, credo, perché è pura anima, credo che sia un po' uno spirito a cui tutti alla fine tendiamo. Ci lasci dei riferimenti internet per saperne di più sulla tua attività in generale e su questo spettacolo in particolare? Allora, io sono su YouTube, alla voce del mio nome, Cinzia Damassa, ho anche un profilo Facebook professionale, ma le mie cose, quelle più recenti, sono tutte sul profilo YouTube. Si può trovare anche in internet, anche il monologo, non accompagnato dalle musiche, che sono quelle della leggenda del pianista sull'oceano di Morricone, ma da un percussionista, Stefano Calvano, infatti ci sono entrambe le versioni su internet. Tutto qui. E poi io spero che sarete felici e curiosi di vedere questa nuova rappresentazione di 900. 900, la leggenda del pianista sull'oceano di Alessandro Baricco per la regia di Roberto Cagliafa. A Roma, in funzione, giovedì 10 ottobre 2019. Un saluto e un ringraziamento all'attrice Cinzia Damassa. Un abbraccio, in bocca al lupo, a risentirci presto. Viva il lupo, grazie a tutti, grazie dell'attenzione. Ed eccoci alla settimana teatrale romana con il nostro Simone Nebbia di Teatro e Critica, che ci guiderà un po'. Ciao Simone! Ciao, sempre questo vizio di dire vostro, io non sono di nessuno, a meno che non ne comprate, comunque c'è sul sito il prezzo di vendita, quindi se volete ne possiamo sempre comunque parlare. Ben trovati, benvenuti tutti quanti a questo nuovo appuntamento con il nostro teatro della settimana. Abbiamo un bel po' di cose, quindi cerchiamo di andare con ordine e con un po' di rapidità. Prima di tutto ce ne andiamo all'ex lavanderia, dove fino al 26 ottobre alla Santa Maria della Pietà è di scena Umane Scintille, la rassegna di teatro contemporaneo tra dissenso, poesia, ritardi, stupori. Insomma, dissenso mi piace sempre quando si può parlare di dissenso, perché quando non possiamo permetterci più il dissenso, ahimè, abbiamo finito le campane. Quindi, venerdì 11 ottobre alle ore 21, collettivo Teatro Prisma, con appunto un ben augurante Denuncio Tutti, punto, Lea Garofalo. L'ha scritto Giovanni Gentile, che non è il ministro dell'istruzione del Partito Fascista, ed è invece un autore teatrale. In scena ci sarà Barbara Grilli, ovviamente, si racconta della storia di Lea Garofalo e del suo omicidio confessato in aula dal suo ex compagno, insomma Lea Garofalo, che poi è diventata un modello di lotta all'andrangheta e di lotta in genere a tutti i soprusi. Quindi Denuncio Tutti, Lea Garofalo, venerdì 11 ottobre alle ore 21. Poi seguirà il 12 ottobre Le fiabe africane, L'uomo e il serpente, alle ore 17. Semi Volanti presenta con Valerio Cantobonanni questo lavoro, un cantastorie africano che viaggiava e spesso approdava nei grandi mercati e molti si fermavano ad ascoltare le storie, le sue storie di terre lontane. Questo ciò che riguarda Umane Scintille all'ex lavanderia e al Santa Maria della Pietà per questo prossimo weekend. Allora, invece, andiamo al Teatro India, perché l'11 ottobre ci sarà uno spettacolo, anche qui, piuttosto interessante, soprattutto per i nostri ascoltatori, molto attenti a tematiche sociali. Il 13 febbraio del 76, a 18 anni, Giuseppe Gulotta, un giovane muratore con una vita come tanta, viene arrestato e costretto a confessare l'omicidio di due carabinieri ad Alcamar, una piccola caserma in provincia di Trapani. Gulotta vive 22 anni da innocente in in carcere e i successivi 36 anni di calvario con la giustizia, calvario con la giustizia. Alla sua storia si ispira Come un granello di sabbia, questo spettacolo che è scritto e diretto da Massimo Barilla e da Salvatore Arena, che sarà in scena al Teatro India venerdì 11 ottobre. Quindi attenzione, uno spettacolo molto interessante perché racconta la storia da un punto di vista molto particolare, cioè quello di ne subisce i torti più orribili. Andiamo anche al Francacino, dove Ugo Dighero si esibisce in un piuttosto arduo mistero buffo, Dario Fo, dal 10 al 13 ottobre appunto al Teatro Brancalcino per questo monologo di Ugo Dighero prodotto dal Teatro Nazionale di Genova. Poi andiamo anche a vedere il ritorno a Roma di una compagnia molto nota che non viene da tanto tempo e sarà questa sera nel Chiostro Borrominiano di Santivo alla Sapienza. Si tratta di Teatro Studio Crichton con un progetto di teatro architettura di Giancarlo Cauteruccio dedicato a Leonardo da Vinci. Il Diluvio si chiama questo lavoro, con Roberto Visconti, ha anche delle musiche originali dal vivo e una scenografia virtuale, appunto progetto di teatro architettura dedicato al grande maestro Leonardo da Vinci. Sarà in scena questa sera in due repliche alle ore 19 e alle ore 20:15. Quindi chi amasse Leonardo da Vinci e soprattutto anche la storica compagnia Teatro Studio Crichton di Giancarlo Cauteruccio è pregato di presentarsi a Santivo alla Sapienza. Poi andremo sicuramente anche al Teatro del Lido, che si presenta anch'esso rinnovato e ci aspetta per questa settimana con l'anteprima romana Ostiense di Souvenir, la fantasiosa vita di Florence Foster Jenkins, una vita del passato affidata a Francesca Reggiani e Claudio Vigagli, 12 e 13 di ottobre per questo lavoro al Teatro del Lido. Al Teatro Studio 1 dal 10 di ottobre fino al 20, con 10 giorni, questa madre coraggio dei figli brechtiana che Lorenzo Deliberato porta sulla scena del piccolo teatro di Tolpignattara, Teatro Studio 1, già dalle scene lo scorso anno, durante la rassegna I giorni della comune, torna questa donna che cerca di sopravvivere ad ogni costo attraverso l'istinto materno, ma sopravvivere al dolore, alla privazione, sopravvivere a uno stato di guerra permanente che un po' la sostiene perché appunto la fa campare e un po' la uccide perché le porta via i figli. Grande contraddizione della guerra, dal 10 al 20 ottobre, Teatro Studio 1 per Mitterra. Poi al Teatro San Umberto, questa volta, da questa sera fino al 27 ottobre, andiamo anche a San Umberto perché è in scena uno spettacolo di e con Giovanni Scifoni e la regia di Vincenzo Incenzo, scusate ma era un po' uno scioglilingua, e si tratta di Santo Piacere, Dio è contento quando godo. Non c'è sesso senza amore, è solo il riff di una canzone, una verità assoluta, come la mettiamo con il sesto comandamento. Quindi ecco, probabilmente è attorno a questa vicenda tra fede e godimento che si fa luce con il lavoro appunto di Giovanni Scifoni, che si presenta al Teatro Sala Umberto a parlare di religione e sesso, religione e piacere. Questo vincitore del Premio Teatri del Sacro 2017, quindi attenzione perché è stato premiato anche da un festival promosso da religiosi e quindi evidentemente l'attenzione su questo tema sarà trasversale di grande caratura. Quindi da questa sera 8 fino al 27 di ottobre, Sala Umberto, Santo Piacere, Teatro Hop of Theater, che è via Giulia, sempre in centro. Venerdì 11 ottobre inizia la nuova stagione del teatro. Il drammaturgo Giovanni Franci presenta questa pièce Dialoghi Platone, che appunto dà inizio alla stagione dall'11 fino al 20 ottobre, con un attore molto noto come Paolo Graziosi nei panni di Socrate e altri attori under 30 che si vanno ad aggiungere all'attore più noto. Si tratta di uno spettacolo che è un manifesto della libertà di pensiero, un elogio dello scandalo in cui si ride di ogni cosa e non si tace su niente. Quindi questo lavoro dedicato alla filosofia per l'apertura della stagione dell'Hof of Theater dall'11 fino al 20 di ottobre. Invece, per quanto riguarda il Festival Internazionale Pro Patria, i giovani talenti rumeni, al Teatro di Testaccio verrà presentato lo spettacolo Drumul, La Strada, interpretato da Marius Bisau, una storia di riscatto e di autoformazione dagli anni 80 in Romania fino a fine anni 90 in Italia, di questo bambino che poi cresce e appunto mantiene sempre dentro di sé tutti i passi fatti lungo la sua Drumul, la sua strada. Quindi andremo anche al Teatro di Testaccio per questo lavoro, poi torneremo anche al Teatro Arco questo fine settimana, perché dopo aver visto separatamente i lavori della trilogia dell'Essenziale diretti da Vinicio Marchioni, scritti da Valentina Diana con l'interpretazione di Marco Vergani, andremo per questo prossimo weekend a vedere intanto La Nipote di Mubarak 10, 11 e 12 di ottobre, e domenica invece tutti e tre gli spettacoli della trilogia in una sorta di maratona, quindi L'Eternità Dolcissima di Renato Cane, Una Passione e La Nipote di Mubarak in fila per appunto la stagione del Teatro Argo Studio che sta riavviandosi. Cos'altro? Sicuramente andiamo al Teatro Tor Bella Monaca, perché intanto questa sera c'è uno spettacolo molto interessante per noi, Federico, perché Bye Bye Gillo, il lavoro che sarà in scena oggi e domani, sì, con Simone Giacinti, è dallo scritto a Tahad Nani e la regia di Elena Siri, ed è un racconto di un clandestino immigrato dal Marocco in Belgio in cerca di futuro, un'esistenza fantasma senza documenti che si alterna a momenti drammatici, situazioni paradossali, lui vive di espedienti, vive un po' di solidarietà e ovviamente ha attorno i sospetti, il terrorismo e delle sue poche possibilità di futuro. Quindi tra paura e integrazione, tra accoglienza e sicurezza, questo lavoro di Tahad Nani oggi e domani al Teatro Tor Bella Monaca, teatro dove comunque andremo anche durante il weekend, perché 55 minuti e 20 secondi è il lavoro che propone la compagnia Effetto Juliet con Valeriano Soffiti ed Emiliano Valente, che giovedì 10, venerdì 11 e sabato 12 presentano questo lavoro sul palco del teatro Tor Bella Monaca. Cosa c'entra il tempo con le nostre vite? Perché quella che riconosciamo come una convenzione condiziona così categoricamente il nostro incedere. Questo è il lavoro che cerca di indagare il tempo che è denaro, che è un tempo perduto, tempo che è presente e smette di esserlo continuamente nella linea temporale finché non diventa passato, attimo dopo attimo. Questo è il tempo, anche la durata dello spettacolo, in realtà 55 minuti e 20 secondi a Teatro Tor Bella Monaca, ultimo lavoro del Teatro Tor Bella Monaca che andremo a vedere dall'11 al 13 ottobre con Test, questo lavoro di Jordi Vallejo con la regia di Roberto Ciufoli, che parte da un test innocuo, 100.000 euro subito, 1.000.000 tra 10 anni, questa è la domanda, e chissà quale sarà la risposta di tutti i protagonisti e le reazioni l'uno alla risposta dell'altro. Questa è una commedia esilarante e molto graffiante che in Spagna insomma sta registrando il tutto esordio da molti anni, e quindi andremo a vedere sicuramente 11-13 ottobre Teatro Tor Bella Monaca. Poi, allora, anche al Teatro Liceo andiamo per l'apertura di stagione, prologo di stagione, questa è l'occasione per vedere un lavoro dedicato ai clown, da dove vengono i clown, con la loro piccola maschera e la loro anima nuda. Questo è il lavoro di Arcangelo Iannace, Silvia Marco Tullio, e dal 10 al 13 ottobre sarà al Teatro Eliseo. Al di là del muro è il titolo del lavoro, e appunto apre al piccolo Eliseo, appunto, perdonatemi, la stagione del teatro che poi più avanti presenterà, diciamo, i suoi spettacoli anche della sala più grande. Quindi ancora abbiamo qualcosa da dire, perché al Teatro Biblioteca Quarticciolo il 10 arriva Industria Indipendente con questa tragedia aerobica che prende il nome di Lullaby. Lullaby sta ad indicare una ninna nanna, ed è un lavoro futuribile in qualche modo. Stati Uniti d'Europa 2059, la catastrofe è stata evitata, il mondo sembra ora un luogo giusto, inerti, iperconnessi, dedicati invece alla produzione, quella generazione di giovani di un tempo ora si gode una vecchiaia nei tanti centri della diffusi nel continente. Cosa saranno? Ce lo andranno a dire i ragazzi dell'industria indipendente il 10 ottobre al Teatro Biblioteca Quarticciolo, ma attenzione alle 10.30 del mattino. Questa è la dichiarazione del teatro. Cos'altro? Sicuramente 12 e 13 ottobre andremo al Quarticciolo perché la Dolce Guerra Camiria Teatro presenta questo lavoro con Elena Ferrari e Mariano Arenella. Si tratta di un lavoro dedicato, non a caso, appunto a Gabriele D'Annunzio in qualche modo, o un non pioniere del cinema, Ada, una maestra elementare. Camiria, ricordiamo, è forse il primo film italiano ed è stato scritto appunto da Gabriele D'Annunzio. Vivono in una brillante Torino, in piena Belle Époque. Ada segue le direttive ministeriali, insegna le parole di D'Annunzio e sullo sfondo avanzano le prime lotte di emancipazione femminile. Questo periodo, pieno di entusiasmo, chiaramente pian piano, in questo periodo si farà intravedere la guerra con tutto quello che ne segue. Quindi Camiria Teatro con La Dolce Guerra, 12-13 ottobre al Teatro Biblioteca Quarticciolo. Cos'altro? Sicuramente da non perdere quello che c'è questa settimana al Teatro Argentina, ovvero sia la tappa romana del lavoro che Milo Rau sta conducendo sulla Passione di Cristo, un lavoro a tappe che è stato fatto per Materia Capitale della Cultura e arriva nella capitale. 10 ottobre al Teatro Argentina la rivolta della dignità, resurrezione. Questa sarà un'assemblea politica per interrogarsi sul valore contemporaneo dei messaggi di fede. È un lavoro, quello di Milo Rau, molto importante, che cerca di leggere appunto in maniera multidisciplinare questo nuovo Vangelo tra realtà teatro e cinema, con un cast di rifugiati, richiedenti asilo, contadini disoccupati, quindi a pensare ancora alla figura del Cristo come simbolo di sofferenza degli emarginati. Questo sarà il 10 ottobre alle ore 21 al Teatro di Roma ed è un po' uno dei lavori della settimana. Io invito anche a ricordare che apre anche la stagione dello spazio 18B ed è La Cena di Giovanni Greco che con la regia di Massimo Roberto Beato dal 10 al 13 ottobre se ne andrà in scena. Siamo in una cena in casa, solitudine, e è un lavoro dedicato a Osip Mandelstam, morto in un gulag a seguito delle persecuzioni staliniane. Il grande poeta russo del Novecento viene ricordato da questo lavoro, che è stato scritto in realtà secondo me molti anni fa da Giovanni Greco, se non sbaglio, avrà una decina d'anni questo testo. Mi fa piacere poterlo segnalare ancora in scena, forse con una regia del tutto nuova rispetto ad allora, appunto questo lavoro che si occupa di riportare Mandelstam davanti agli occhi di tutti, cosa non da sottovalutare. Due cose ancora, una è appunto la stagione di Roma Europa Festival, che questa settimana ritorna in scena con la danza. Arno Schwitemacher con The Way You Sound Tonight si presenta sul palco del Teatro Vascello questa sera e domani. È un lavoro che indaga le relazioni tra scena e pubblico, tra scrittura coreografica e percezione. Cinque interpreti in scena coinvolgono il pubblico in cicli di movimento pulsanti e dilatati nel tempo e lo avvolgono di suono. Questo è quello che andremo a vedere al Teatro Vascello oggi e domani per Roma Europa Festival, ma non finisce qua perché abbiamo ancora, sempre in questo caso domani, il lavoro di Chiara Taviani e Enrique Furtado Vieira, Stand Still You Ever, Lunghish Spells of Heaven. Prima nazionale. Due creature si parlano e ci parlano reinventando e piegando ad un senso intimo la lingua anglosassone, puntando sulla musicalità e concentrandosi sulla ritmica, la dizione e la pronuncia, riscrivono un testo dallo slancio dadaista, enfatizzando la stravaganza e il rifiuto della logica. Questo è quello che vedremo in scena con Chiara Taviani e Enrique Furtado Vieira domani al Mattatoio, al Teatro 1. Poi, sempre per la danza, I Listen, You See, Andy Gridi, sempre al Mattatoio, ma alle ore 21 presenterà invece questo lavoro, sempre in prima nazionale, ispirato ai movimenti e ai corpi degli operai e dei lavoratori tunisini, contrapponendoli a quelli artistici. Quindi il lavoro in cui i gesti più banali si confondono con il pop, atmosfere pop e rock, porterà in scena, diciamo, questo ibrido danzato. In scena sarà sia mercoledì che venerdì, mentre per sempre di danza parliamo, per il progetto Aerowaves Dancing Days al Mattatoio l'11 di ottobre, Sylvain Bouillet, Lucien Rein e Naïf Production dei Chess Planks, con questo lavoro dedicato al rapporto tra padre e figlio si costruisce un dialogo sull'equilibrio che è tra il corpo e il peso di un bambino e quello di suo padre. Questo gioco di improvvisazioni è molto poetico e lo andremo a vedere appunto l'11 ottobre al Mattatoio. Visto le immagini, ed è effettivamente un lavoro molto molto interessante. Cos'altro? Sicuramente sabato 12 andremo sempre al Mattatoio per Elena Sgarbossa con Cleo, questo lavoro in prima nazionale che ha vinto DNA Punti Coreografici nel 2018 e si ispira alla storia del satellite che ho lanciato in orbita nel 2019. Il veicolo spaziale rientrerà sulla Terra tra 50.000 anni e conserverà i messaggi scritti dagli abitanti di oggi. Questo è il lavoro che andremo a vedere al Mattatoio sabato 12. Ma forse il lavoro che maggiormente nel programma di Roma Europa Festival di questa settimana potrà interessarci è quello scritto da Jan Faber, interpretato da Nino Musella, The Night Rider, giornale notturno. Il lavoro che sarà in scena al Teatro Vasciano dall'11 al 13 ottobre è stato scritto direttamente in italiano da Jan Faber, che riunisce alcune pagine dei suoi diari personali e dà vita a una autobiografia intima e provocatoria. Lo scrittore notturno riflette sulla sua concezione di arte, di estetica, sul teatro, sulla sua vita personale, donando al pubblico riflessioni e che attraverso la sua intera vita, questo con uno dei maggiori attori teatrali, che è Lino, attori italiani, che è Lino Musella, lo andremo a vedere sicuramente sul palco del Teatro Vascello dall'11 al 13 ottobre. Una ultimissima cosa è quello che vedremo, la storia d'amore tra un cristiano e una musulmana, ispirato alla tragedia di Romeo e Giulietta di Shakespeare, e che il regista Fabio Modei porta il 12 ottobre sul palco del Teatro Argentina in prima nazionale. Quindi anche qui un lavoro molto interessante, particolare. Come rileggere Romeo e Giulietta? Ecco, appunto, sarebbe Romeo e Giulietta, leggere Romeo e Giulietta a Gerusalemme, più o meno il tipo di impatto di questo lavoro qui. E questo direi, Federico, che è tutto, e ci mancherebbe visto quanto è. Ciao Simone, un abbraccio. Ciao a tutti. Tutta scena teatro su Radio Onda Rossa, spazio settimanale dedicato al teatro, spettacoli e mostre. Il martedì alle ore 14. I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.